si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Si può fare il buongiorno del sabato e della domenica mattina. Staremo insieme sino alle 11, le prime pagine dei giornali, i nostri approfondimenti. Cominciamo subito, come ogni mattina, con una buona notizia. And now, the good news! Abbiamo parlato questa settimana di riduzione degli sprechi, sprechi alimentari, in particolare con la giornata nazionale della prevenzione dello spreco alimentare promossa dal Ministero dell'Ambiente mercoledì scorso. Questa notizia invece ha a che fare con la riduzione degli sprechi per quanto riguarda i farmaci. A Bologna, ad un anno dalla nascita del progetto Farmaco Amico, si traccia un primo bilancio. L'iniziativa per recuperare farmaci non scaduti, destinati a diventare però rifiuti, riutilizzati sul territorio tramite le associazioni di volontariato, ma anche la collaborazione delle farmacie, da 10 a 27 sono diventate in un anno. Allora, sono stati recuperati 375 kg di farmaci per un valore di circa 88.000 euro, che ne hanno potuto beneficiare di queste medicine circa 2.500 famiglie. Quasi 100.000 euro i soldi risparmiati, perché è bene ricordarselo che la lotta agli sprechi non è solo un fatto etico o morale, ne beneficiano delle persone, quindi è solidarietà, ma è anche una lotta allo spreco economico, perché poi per esempio questi farmaci vanno riciclati in discarica a costo di tutti i cittadini. Dunque ben vengano progetti come questo di Bologna. Ma andiamo sulle prime pagine dei giornali di oggi, dove si parla soprattutto di politica, con l'attesa per questa settimana nella quale il Presidente del Consiglio Enrico Letta salirà sicuramente al Colle per fare una messa a punto, una verifica, un pit stop, un rimpasto, non si sa esattamente in quale forma, ma comunque una revisione del governo. Insomma, si parla soprattutto del fatto che Renzi e Letta giocano un po' al gatto e al topo su questo passaggio, perché Renzi continua a dire di non volere un rimpasto, non vuole che si allunghi surrettiziamente la vita del governo, invece proprio quello che forse sotterraneamente vorrebbe Letta. Andiamo sul Corriere della Sera. Letta sfida Renzi sul governo, piano crescita e nuovi ministri, gelo da parte del leader del Partito Democratico. Vediamo come il Corriere ricostruisce un po' le tappe di questa settimana. Allora, all'inizio della settimana, ma non prima di martedì, Letta salirà al Colle. Dopo il colloquio con Napolitano sul rilancio delle azioni di governo, si confronterà con gli altri membri della maggioranza. Martedì avrà inizio nell'aula di Montecitorio l'esame della riforma della legge elettorale, altro passaggio importante. Sarà un banco di prova per l'intesa sull'Italicum, sia tra i partiti sia all'interno dei democratici. Poi, all'inizio della settimana, le Camere affronteranno decreti in scadenza, tra cui Destinazione Italia e quello sul finanziamento ai partiti, con rischi di incidenti parlamentari. Il 19 il Premier sarà ospite di Confindustria, presenterà le sue proposte agli industriali dopo le polemiche con Squinzi. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ha chiesto con forza ancora oggi, tra l'altro su alcuni giornali, tra poco lo vedremo, che ci siano degli interventi concreti per il rilancio dell'economia. Insomma, temi di cui si parla da mesi, se non da anni, però questa settimana sono questi gli snodi attraverso i quali capiremo come sarà rilanciata e se sarà rilanciata l'azione del governo. Dello stesso argomento si occupa anche Repubblica. Renzi, tre strade per Palazzo Chigi. Vediamo il punto di vista di Renzi, poi vedremo anche quello di Letta. Sebastiano Messina, al seguito di Renzi ieri in Sardegna per una tour elettorale per le elezioni regionali, dice queste parole al giornalista di Repubblica: Letta dica quello che deve dire, lo ascolteremo. Il tema per me è molto semplice: se il governo mantiene gli impegni che si è preso con un programma di 18 mesi, ha altri 8 mesi di vita e noi collaboriamo. Cosa vogliono da noi? È una situazione kafkiana, davvero, sia chiaro. Io non ho paura delle elezioni, le ho sempre fatte. Ma da me che vogliono? Non ho aperto io questa discussione. In sostanza Renzi dice: io sono sempre stato leale, apertamente, formalmente è vero, nei confronti del governo, quindi non sono io che voglio questa verifica di governo. E poi dice: ma un paese che deve affrontare la crisi non può avere paura di Renzi. Mi dicano una cosa, una sola, che io ho fatto per mettere i bastoni tra le ruote al governo. Il patto di governo, prosegue ancora Renzi, diciamo parlando con Sebastiano Messina in Sardegna, dice: il patto di governo c'è già e dura fino a ottobre, cioè fino alla scadenza dei 18 mesi. Vogliamo ridiscuterne i contenuti? Bene, io ho dato la mia disponibilità la più ampia possibile. E qui poi la domanda cruciale: vogliono allungare la legislatura? Allora si deve cambiare gioco. Letta ha detto che ci spiega tutto lunedì, non ci rimane che aspettare lunedì. E poi la conclusione è questa: schema A, 18 mesi durata del governo; schema B, elezioni subito; schema C, durata per l'intera legislatura; la A, la B o la C, dice Renzi, decidano loro. Io sono per la A, cioè per i 18 mesi, che era poi l'impegno preso da questo governo, governo di transizione, governo delle emergenze, governo speciale, non so come è stato definito in mille modi. E poi alla fine Renzi dice ancora: io non voglio andare adesso a Palazzo Chigi, se lo tolgono dalla testa. Cosa ha in mente invece Enrico Letta? Eccolo qua: 5 mosse, 5 punti per rilanciare l'azione del governo. Il piano programmatico lavoro, il piano prevede un'aggressione alla disoccupazione, meno tasse. Con l'impegno 2014 il governo promette una riduzione delle spese correnti per abbattere le tasse su famiglie e imprese. Poi investimenti, digitalizzare e le semplificazioni. Insomma, sono questi i 5 punti sui quali scommette Enrico Letta per rilanciare l'azione del governo. Tutto questo visto dagli occhi dei giornali, diciamo così, di destra, vicini a Forza Italia, è questo: Letta piange al Colle, il giornale. Governo agli sgoccioli, il premier domani da Napolitano per evitare il licenziamento. Gli industriali lo fanno fuori e Berlusconi dice ai suoi: forza che è la volta buona. Enrico Letta prova ad uscire dall'angolo. Domani salirà al Quirinale, vuole coinvolgere la Presidenza della Repubblica nella soluzione della crisi o, più semplicemente, scrive il giornale, vuole chiedere protezione. Per Libero invece il titolo è questo: riecco Silvio, torno e rottamo tutti. Finalmente Berlusconi su di giri, parla 2 ore di fila. A parte che ha sbagliato il collegamento tra Alghero e Aquileia, ha parlato pensando di essere collegato con Aquileia al telefono, invece era Alghero. A parte questo, dice: vivrò 120 anni, a galvanizzarlo i sondaggi, l'asse con Renzi e ritrovato feeling con gli imprenditori. A proposito di imprenditori, La Stampa oggi, nella pagina dedicata alle parole del governatore della Banca d'Italia Visco, la ripresa resta debole, raccoglie, diciamo, le confidenze di Giorgio Squinzi, il presidente di Confindustria. Siamo preoccupati dall'immobilismo del governo, spargere ottimismo non conviene, dice Squinzi, servono interventi seri, il nord è terrorizzato. Insomma, queste sono settimane nelle quali Squinzi sta veramente col fiato sul collo al governo, a voler dire: insomma, avevate detto che avreste rilanciato l'azione all'inizio dell'anno, un nuovo patto programmatico, misure finalmente concrete dopo mesi di galleggiamento e tutti i pasticci sull'IMU e sulle tasse. Siamo a febbraio, non si è ancora visto nulla, se si va avanti così, altro che ripresa, il paese affonda. Questo è il senso dell'incitamento, ma anche degli allarmi lanciati da Squinzi. A proposito invece del presidente, del governatore della Banca d'Italia Visco, che ha parlato ieri, così ne riporta le sue parole il Sole 24 Ore: Visco, ripresa incerta, tagliare il cuneo fiscale. Banca Italia chiede più riforme, meno tasse su imprese e lavoro. Sembrano titoli di anni fa, perché queste sono le stesse cose che si dicono da anni. Comunque, con una ripresa ancora fragile, per ritrovare competitività bisogna partire dal taglio del carico fiscale su imprese e lavoratori. Anche questo è stato detto milioni di volte, ricordate addirittura, insomma, la campagna elettorale del 2006, quella di Prodi, basata sul cuneo fiscale. Poi il governo durò 2 anni. Le Iene fecero un'inchiesta andando in giro chiedendo alla gente se sapevano che cos'era il cuneo fiscale. Nessuno lo sapeva. Adesso abbiamo imparato a capire che cos'è il cuneo fiscale. Sono le tasse sul lavoro, bisogna ridurle, altrimenti per gli imprenditori non conviene assumere, e per chi lavora non è abbastanza, non si guadagna abbastanza. Però anche qui si dice non si interviene. Letta, il governo Letta ha iniziato un provvedimento sul cuneo fiscale, ma di pochissimi spiccioli nella legge di stabilità. Il Fatto Quotidiano si interessa invece di un'altra notizia. CSM è stato napoletano a voler processare Di Matteo. Che succede? Fu Donato Marra, cioè il braccio destro del presidente, a denunciare al procuratore generale della Cassazione, il PM della trattativa Stato-Mafia, per un'intervista sulle telefonate con Mancino. Scrive Marco Travaglio, a proposito di questa notizia, Di Matteo, il PM odiato da Riina, che dal carcere dove era rinchiuso tramite le intercettazioni abbiamo scoperto voleva insomma fargli la festa, è anche odiato da Napolitano per la questione della trattativa Stato-Mafia, e ad avvisare il CSM è stato proprio il braccio destro di Napolitano. Scrive Marco Travaglio: da un anno e mezzo, cioè da quando la procura generale della Cassazione trascinò Di Matteo, il PM più odiato da Totò Riina, sotto procedimento disciplinare dinanzi al CSM, si sospettava che l'incredibile iniziativa non fosse spontanea, ma spintanea, dice Travaglio, suggerita dal Quirinale, visto che Di Matteo, dopo l'uscita di Antonio Ingroia dalla magistratura, è anche il magistrato più detestato da Giorgio Napolitano. Ora il sospetto diventa certezza grazie a un documento ufficiale. La richiesta di proscioglimento, depositata a fine dicembre dal PG Gianfranco Ciani e dal sostituto Antonio Gialanella, i due, ricostruendo la genesi del processo che riguarda anche il procuratore capo di Palermo Francesco Messineo, rivelano che la segnalazione, questo è il punto, dei possibili illeciti disciplinari partì proprio dal Colle. Virgolettato, al procuratore generale presso la Cassazione preveniva in data 17 luglio 2012 dal segretario generale della Presidenza della Repubblica Marra una missiva datata 9 luglio 2012, cioè è stato il Quirinale a scrivere al CSM di indagare su Di Matteo, il procuratore di Palermo che indaga sulla mafia e sulla trattativa Stato-Mafia. Traffico. La mia ricetta per salvare l'Italia, diciamo un pezzettino di Italia, cercare di cominciare a parlare un pochino più speditamente, più diciamo fittamente, perché è molto rara se non quasi inesistente, del fatto dell'alluvione che è capitata qua a Modena per incuria e mancato ascolto delle segnalazioni plurime che sono state fatte all'amministrazione. E un'altra cosa è cercare di evitare di continuare a mantenere i comuni nelle condizioni di non poter spendere i soldi che hanno per poter salvaguardare il territorio. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Strade in diretta. È chiusa la A7, la Milano-Genova in direzione di Milano, tra il Vivio per la A10, la Genova Ventimiglia e quello per la A12, la Genova-Livorno. La chiusura si è resa necessaria a causa di uno smottamento. Incidente nelle Chese a Civate, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, sulla carreggiata verso Milano, si è verificato all'interno della galleria Montebarro. Lavori in programma al nord-est, sulla Venezia-Trieste, la A4, che tra poco alle 10 chiude tra Porto Gruaro e Venezia Est in direzione Venezia e tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione di Trieste, riaprirà domattina all'una del mattino. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Difendere la proprietà industriale significa far crescere le idee, ma in concreto come si fa? Con due semplici strumenti alla portata di tutti, marchi e brevetti, che permettono alle imprese di distinguere i prodotti propri da quelli della concorrenza e poi di commercializzarli in esclusiva. In questo modo possiamo tutelare idee, progetti, invenzioni e tutti quegli elementi di novità che fanno la fortuna di un'azienda. Oggi è quanto mai importante dar valore alle idee. Non abbandoniamole a se stesse. Difendiamo la proprietà industriale. Campagna a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cari ascoltatori, eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Restiamo in edicola perché, come ogni domenica a quest'ora, andiamo a curiosare tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, e ritroviamo il responsabile curatore direttore del domenicale, Armando Massarenti. Buongiorno e buona domenica, Armando. Buona domenica a tutti. L'unico inserto culturale che ci aiuta, dico io, a rispondere alle grandi domande: chi siamo, dove stiamo andando, insomma, gli appuntamenti, le rassegne, i festival, ma anche i dibattiti che contano nel mondo della cultura. Armando, oggi da dove vuoi partire per raccontarci questo viaggio nel domenicale? Ma dunque, brevemente partiamo dalla copertina, ma che poi lasceremo illustrare dall'autore stesso dell'articolo. Armando, non ti sentiamo bene, proviamo a ristabilire la linea con te, però visto che lo hai annunciato e visto che la copertina è dedicata a, ed è scritta soprattutto da lui, lo salutiamo, se ci sente. Gianmario De Muro, costituzionalista, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Ah, perfetto, almeno lei ci sente, così siamo a posto. Armando stava annunciando: niente cultura, niente riforme, una buona Costituzione si appoggia sulla cultura che la esprime e la arricchisce in un reciproco scambio vitale. Il Senato delle competenze, questo è il tema che il domenicale sta portando avanti da un po'. Oggi come affrontate questo argomento? Ma l'idea è fondamentalmente quella di riconoscere che la Costituzione ha una base culturale molto forte, richiamando la teoria di Heberle, che è un grande costituzionalista tedesco, si può dire che un popolo è dentro la sua Costituzione. Ora, se da questo punto, se noi riconosciamo che la cultura è il fondamento di tutto, l'idea di costruire anche una rappresentanza politica intorno alla cultura stessa diventa importante per poter affrontare alcuni temi che hanno bisogno di un approccio che deve essere di tipo culturale in senso ampio. Naturalmente devo dire il senso che ha dato, a mio modo di vedere in maniera molto corretta, il domenicale in queste settimane, ma anche direi l'impostazione stessa del giornale, che spazia dalla letteratura alla ricerca scientifica. Armando, hai sentito, insomma, tutto sì. Partì con il Manifesto della Cultura quasi 2 anni fa, poi adesso avete rilanciato questo tema importante, questa iniziativa che De Muro appunto ci stava ricordando, come oggi ripresentate in prima pagina. A me piace ricordare questa cosa che scrivete: senza scienza, senza arte, senza letteratura, senza architettura, senza musica, che cos'è la politica? E questa è un po' la domanda di sottofondo. Armando, abbiamo ancora qualche minuto però per... Volevo ricordare che questo niente cultura, niente riforme, forse l'hai già detto tu, richiama il titolo proprio del nostro manifesto: niente cultura, niente sviluppo. Le due cose si intrecciano fortemente. E allora, guarda, volendo ricordare qualche altro argomento dei tanti che noi trattiamo oggi, ne voglio ricordare uno, proprio la testimonianza di come la cultura sia qualcosa di vasto, che include anche ovviamente il diritto e l'economia. Trovate un bellissimo pezzo di Nicola Gardini, che insegna a Oxford, che ci parla di Lorenzo da Ponte, cioè niente meno che l'autore dei libretti di Mozart, del Don Giovanni e di altri libretti, che è stato il principale promotore all'inizio dell'Ottocento dell'insegnamento dell'italiano e delle opere italiane negli Stati Uniti, fondando proprio la prima cattedra alla Columbia University di italianistica. E che cosa portava? Proprio, si è fatto grande promotore, allora non era così importante l'italiano nel mondo, studiare l'italiano nel mondo, erano privilegiate altre lingue, e portava le opere non solo della letteratura, non solo poesia, non solo teatro, non solo melodramma, ma medicina, giurisprudenza, architettura, fisica, chimica, matematica. Gli autori poi più importanti, che quelli che gli piacevano di più, erano Machiavelli, Beccaria, appunto, tra l'altro 250 anni fa usciva dei Delitti delle Pene, ricordiamolo che è l'anniversario. E quindi, insomma, la cultura che noi italiani possiamo, di cui possiamo andare fieri, ecco, è questa cosa, è una cosa molto complicata, è molto variegata, e rispecchia appunto un'idea di unità della cultura, in cui poi le competenze, le singole competenze, devono essere valorizzate. Ecco, è un peccato che il sistema politico si dimostri abbastanza impermeabile a questi nostri appelli continui, ma noi non demorderemo. Non so se ho se ho spazio per altri argomenti. Sì, sì, Armando. Tra l'altro a me piaceva molto l'iniziativa, quella, i tweet filosofici e tutta la collana. Quella sta andando avanti, tra l'altro, vogliamo sì, dire. No, tra l'altro faremo, ecco, questa filosofia antica per spiriti moderni, sì. La collana che sto curando dei, appunto, dei classici della filosofia antica, che mostra quanto, quanta saggezza, diciamo, contenessero quei testi, ha avuto un certo successo, abbiamo fatto 15 volumi, siamo adesso al 14esimo e abbiamo deciso di fare un'aggiunta di altri 5, visto il successo, vedi. Visto anche il modo in cui i nostri lettori interagiscono rispetto a temi di questo genere, temi alti, ma che evidentemente toccano molto da vicino la vita delle persone. E poi devo dire, ecco, per non essere troppo seriosi, ricordiamo anche qualche argomento un pochino più, se vogliamo, leggero, ma neanche tanto. Un grande scrittore inglese, Tim Parks, firma l'Elsevier di terza pagina, in cui ci racconta, cioè prende la questione della letteratura, ecco, in una maniera apparentemente un po' frivola, ma che però è interessante proprio dal punto di vista sociologico. Cioè ci fa vedere come gli scrittori in realtà guardano soprattutto, sono ossessionati dal successo, soprattutto nelle prime fasi della loro carriera. Cioè il discrimine vero è essere pubblicati o non essere pubblicati, entrare nelle classifiche o non entrare nelle classifiche, e fa degli esempi anche qui molto significativi, molto alti. Salman Rushdie, per esempio, pare ossessionato dalla E da chissà se questa è una buona motivazione oppure no, insomma, per produrre capolavori. Non fa del moralismo, però, dice Tim Parks, dice che fa un'analisi lucida. È semplicemente un'analisi lucida, poi chiaramente nessuno nega la qualità delle opere di Rushdie, ma fa vedere come obiettivamente ci sia questa spinta, non solo ormai negli scrittori, a essere famosi, perché qui si potrebbe aprire un altro capitolo. Dobbiamo fermarci qua, grazie mille a te Armando Mastrenti, ti ritroviamo domenica prossima, e anche a Gianmario De Muro, che è stato nostro ospite. 800 24 00 24, si può fare prosegue dopo il giornale radio, e ricordate che anche oggi si vince la collana BBC English. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24 il nostro numero verde per intervenire in diretta. Adesso cominciamo a sentire i vostri interventi, potete commentare quello che sentite, le prime pagine dei giornali che abbiamo letto poco fa, e anche i nostri approfondimenti. Potete raccontarci, come ogni weekend, che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Oggi però il nostro contest, per il quale confermiamo come domenica scorsa il ricco premio, la collana BBC English, un corso di inglese che il Sole 24 Ore dà in allegato al quotidiano a rate, noi ve lo diamo tutto insieme oggi in regalo a chi indovinerà il nostro personaggio della settimana, un personaggio che si è caratterizzato per una notizia che lo ha riguardato in questi ultimi 7 giorni. Il primo indizio ve lo daremo tra poco, dopo la pubblicità. 800 24 00 24, ci sentiamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Tu che hai rispettato le leggi dello Stato, ti senti sfortunato, ti senti perseguitato, offeso, amareggiato. Allora, in prigione, in prigione, in prigione, in prigione, sei proprio tu in prigione. Serva la canzone. Allora, è stata la settimana nella quale alla Camera è stato approvato il decreto cosiddetto svuota carceri, che adesso dovrà passare poi in Senato, quello che prevede, insomma, misure per alleggerire le carceri italiane, per far uscire qualcuno dalla galera, non nel senso di non fargli scontare la pena, ma di fargliela scontare in altro modo. Insomma, ci si gira attorno. L'Italia ha una richiesta pressante dell'Unione Europea di intervenire su questo, e allora prima di andare a sanzione si interviene con questo decreto. Braccialetto elettronico, arresti domiciliari, soprattutto comunità terapeutiche per i tossicodipendenti, insomma si interviene su questo. Un tema sul quale invece non si interviene ancora con abbastanza forza è quello, per esempio, della possibilità di far lavorare i detenuti italiani. Ci sono progetti pilota in alcune carceri italiane dove questa cosa si fa con risultati positivi, perché Le statistiche ci dicono che tutti i carcerati coinvolti in questi progetti di recupero, scuola, lavoro, pene alternative, hanno una recidiva molto più bassa, ma facendo lavorare i carcerati si può anche dare una mano all'economia, è quello che fa la Germania da un po' di tempo a questa parte. Allora noi si può fare, andiamo all'estero e questa mattina siamo in collegamento con Petra Reschi, che è giornalista e scrittrice tedesca. Buongiorno Petra. Buongiorno. Presa in prestito dall'altra Europa, che ha tutta una sua rete di contatti in Europa, di colleghi insomma che ci aiutano a capire le notizie che arrivano dai paesi dell'Europa. Allora, com'è con questa storia che voi fate lavorare i detenuti in Germania, li fate proprio lavorare? Ci sono carceri che ormai assomigliano a delle vere e proprie medie o grandi imprese, Petra? Beh, diciamo che è una cosa completamente normale, nel senso che è previsto dal codice penale tedesco che un detenuto, dopo ovviamente avendo avuto la sua pena definitiva, deve lavorare e non può neanche dissottrarsi a questo. Dunque è questa una cosa che esiste da sempre in Germania. Ma è vero che insomma lavorare diciamo poi dà luogo alla possibilità di avere una serie di vantaggi, di benefici in carcere, insomma, e al contrario sì. Chi non lavora poi non può, io ho letto, non può vedere la TV, non ha diritto a permessi premio eccetera eccetera, cioè lavorare diventa un vero e proprio discrimine all'interno del carcere. Se lavori allora diciamo hai diritto a questi vantaggi, se non lavori no, quindi è un forte incentivo a lavorare. Ma se non lavori intanto prendi una pena supplementaria, dunque non è che non c'è in teoria un'alternativa, tu non puoi rifiutarti a lavorare. L'unica cosa è adesso, da qualche tempo fa ci sono anche in Germania diciamo delle iniziative più o meno delle garantiste che sì. Volevano discutere se è veramente utile nel senso terapeutico sì. Far lavorare i prigionieri. Comunque, fatto sta che fino adesso è obbligo e, sì. E non solo, cioè ovviamente cercano anche di far fare ai detenuti dei lavori che sono un po' appropriati nel senso al lavoro che facevano prima, se facevano il lavoro. Comunque loro in questa maniera i carceri anche si sostengono, nel senso che economicamente certo. Lavorano in cucina oppure falegnameria o fanno anche per esempio per le toghe per i magistrati addirittura questa sì, è una specie sì, di sono delle sartoria specializzata in questo che fa le toghe per i magistrati, è una specie di legge del contrappasso, cioè il carcerato che fa la toga per il magistrato è fantastico. Io leggo che tra l'altro solo in un articolo da Bild Zeitung di qualche giorno fa, che solo in Bassa Sassonia, in 13 strutture penitenziarie, nel 2013 è stato realizzato un ricavo di 18 milioni di euro, sì. Con 5 milioni di euro di profitto. Cioè parliamo anche di cifre ragguardevoli. Io sì, ricordo... Sì, sì. Prego. Ma anche perché loro non è solo una terapia per tenere occupati i prigionieri, ma loro hanno anche l'ambizione di essere diciamo competitivi sul piano economico, dunque non vogliono fare anche delle cose di qualità. Non è solo proprio una terapia per fare qualcosa, dunque ecco, anche appunto. Tanti questo... dunque in qualche maniera ha anche un effetto positivo terapeutico sui detenuti in questo senso. Ecco appunto, questo è interessante. Io ricordo tempo fa avevamo intervistato un imprenditore ungaro, Giuseppe Ungaro, del carcere di Verona, che è una delle poche esperienze in Italia che fa lavorare i carcerati in una struttura all'interno proprio del carcere. Lui ci raccontava che nessuno delle persone che aveva lavorato con lui lui in questi ormai più di 10 anni era mai tornata in carcere subito dopo. Cioè il grosso effetto terapeutico del lavoro è proprio quello di darti probabilmente una marcia in più per il reinserimento nella società dopo, ma anche ti dà quei soldi necessari a vivere dentro il carcere, che altrimenti spesso devi chiedere alla criminalità organizzata, al boss del carcere, perché per comprarti le sigarette o il pasto in più o il vestito nuovo, dove li prendi i soldi se sei in carcere? Ecco che lavorando questa cosa è possibile. Quanto guadagna, non so se ci sarà una tariffa per legge o una media in Germania, il carcerato che lavora? Allora, una media, cioè una legge non c'è, comunque una media è poco, diciamo, e sì, loro guadagnano attorno a 1,50 euro, allora, 80 all'ora. Beh, certo. Comunque non è tantissimo. Non è tantissimo, non però è tantissimo. Questa cosa qua... Comunque di questi soldi loro sì, una parte lo tengono loro, sì, perché un'altra parte viene messa via per il tempo dopo una volta consumata la pena, per dopo quando escono. Dunque non è e poi oltre a questo, oltre ai soldi, loro hanno anche dei premi, diciamo, di giornate in libertà, sì, che sono già in condizione, oppure di essere rilasciati prima anche del carcere del tutto. Dunque ci sono anche dei premi immateriali proprio di tempo libero. E tra l'altro il fatto che guadagnino poco, ma insomma qualcuno potrà obiettare che si tratta di sfruttamento di lavori forzati. Fra l'altro Petra ci stava dicendo che un dibattito in Germania si sta aprendo, sì, però fatto sta che le imprese sono molto attratte da questa possibilità di avere forza lavoro pagata così poco, per cui tutti i penitenziari, tutte le carceri dove si lavora hanno grosse richieste da parte delle imprese, sì, di fare, diciamo, da fornitori di servizi. Ecco, questo sta dando una mano anche, diciamo, forse alla ripresa in Germania. Però Petra, ci stavi dicendo appunto che si sta aprendo un dibattito perché qualcuno non è d'accordo su questa cosa qua. Sì, giustamente di dire, perché per quanto riguarda il lavoro appropriato, nel senso ovviamente che non si può sempre trovare il lavoro appropriato. Se uno è ingegnere magari è più facile che qualcuno, non so che mestiere. Dunque, e poi di mettere piuttosto il tono sul terapeutico, dicono che sarebbe meglio di passare questo tempo in terapia, per esempio, invece di lavorare, insomma. E poi comunque sottolineo che nella discussione, sì, fino adesso solo due paesi della Germania, la piccola regione della Saar e poi la Sassonia, hanno pensato fino adesso non lo hanno realizzato, perché c'era una grande protesta anche, sì, nella parte dei carceri, cioè che dicono: noi non possiamo sopravvivere senza il lavoro dei detenuti. Dunque, certo, ancora è un'idea, una discussione, però non è stata ancora applicata. E lo sappiamo bene noi in Italia, dove abbiamo un problema di sovraffollamento carcerario, quindi di poche risorse investite su questo settore, e quanto ci servirebbero invece degli introiti come questi per anche semplicemente migliorare la qualità della vita dei carcerati. Io credo che molti carcerati italiani sarebbero favorevoli a poter lavorare in cambio come dire, di poter vivere in un carcere sicuramente migliore, perché dispone di risorse economiche per questo. Grazie mille Petra Reschi, giornalista e scrittrice tedesca, per essere stata con noi e averci raccontato questa storia, questa notizia dalla Germania. Grazie, buona domenica. Grazie a voi. Ogni progetto di lavoro, studio e socialità all'interno del carcere significa qualche detenuto in meno che tornerà in futuro a commettere reati. A Padova e Venezia, la rivista Ristretti Orizzonti organizza incontri tra studenti e detenuti. I primi imparano forse a fermarsi un passo prima, i secondi scoprono la loro utilità proprio facendo prevenzione. Come ci racconta Ornella Favero, responsabile rivista Ristretti Orizzonti. Faccio volontariato in carcere da molti anni. Volontariato particolare perché faccio un giornale con alcuni detenuti, però il progetto che mi interessa raccontare è un progetto in cui le persone detenute a un certo punto hanno deciso di mettere a servizio la loro esperienza negativa con i ragazzi delle scuole per fare in qualche modo prevenzione. Abbiamo iniziato questo progetto, il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere. All'inizio si parlava di quanto si vive male in carcere, i diritti che sono spesso negati. Poi ci siamo accorti che finché i ragazzi restano convinti che tanto a me questo non mi riguarderà mai, io in carcere non ci finirò mai, non era così interessante. E allora abbiamo rivoluzionato il progetto, abbiamo detto che bisogna avere il coraggio di partire dalle storie delle persone detenute e raccontare ai ragazzi come si può finire per arrivare a commettere un reato. E non sono sempre storie di scelte di vita, perché sarebbe tutto più semplice se le persone scegliessero, dicono io ho commesso un reato perché ho scelto di fare il rapinatore, sì, in certi casi è una scelta, ma ci sono tantissime persone che finiscono in carcere per un lento scivolamento, per esempio, e tutti i comportamenti legati alla droga sono spesso uno scivolamento in uno spostamento del limite finché non si è più in grado di controllare la propria vita, e succede con i ragazzi molto giovani, tra l'altro, ma anche i reati in famiglia non sono sempre commessi, non sono commessi dai mostri. Ahimè, gli esseri umani, cioè noi, siamo in grado di fare anche cose mostruose. E imparare a chiedere aiuto, per esempio a guardare i propri comportamenti, a stare attenti ai propri comportamenti, è un momento fondamentale. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E buongiorno a Carlo Gabardini. Ciao Carlo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tutto benissimo. Bene? Benissimo. Allora, ci sono un po' di messaggi qua sulla storia delle carceri dalla Germania. Perché parlate del lavoro dei carcerati in Germania e non dei progetti delle carceri italiane, tipo il Due Palazzi di Padova? Abbiamo non appena si può parlare di tutto. Si può parlare di tutto in una intervista sola. Abbiamo appena fatto sentire, caro ascoltatore, che ci chiami forse Fabrizio, sì esatto, da Padova, una storia che riguarda proprio il carcere di Padova. Io ho detto ci sono dei progetti anche in Italia. La differenza è che in Italia ci sono dei progetti pilota nei quali gli imprenditori fanno, insomma, i salti mortali per far lavorare i carcerati. In Germania è la regola. E il fatturato di queste carceri ormai è paragonabile a quello di medie imprese, ed è una cosa incredibile. Sì. E tra l'altro quasi poi... che ne arrestano di più perché hanno bisogno di lavoratori, dici? quasi. Beh, noi avremmo un sacco di lavoratori, poi se finisci in carcere sei sicuro di poter lavorare, almeno esatto. L'occupazione che c'è, perché ruba lei? Perché voglio un lavoro, vitto, esatto. Alloggio garantito, un lavoro, insomma, meglio di così. Si scherza, però in realtà migliora anche la vita del carcerato, perché poi i soldi li impiegano anche per tenere puliti, in ordine. E ricordiamo che la pena in Italia, diciamo, è rieducativa, quindi certo che il lavoro fa molto parte di tutto questo. Sei un esperto di penitenziari, di diritto penale, sì. No, non sono un esperto, però insomma, sembravi. No, perché la questione della rieducazione, coinvolto in questa cosa. La rieducazione è molto importante, perché spesse volte ci si chiede, cioè uno pensa semplicemente che il fatto di andare in carcere sia perché hai commesso un crimine, devi essere punito, ma in realtà è il tentativo della società di recuperarti, se no sì. Che senso ha questo? Se no, cioè io dico sempre, quando si chiudono le porte del carcere dietro a un detenuto, non è che il problema finisce lì, il problema inizia lì, perché poi bisogna vedere cosa succede durante la pena e dopo, quando esce. Diceva Pannella, il carcere è l'unica università che funziona in Italia. Anche perché appunto è uno che ha sbagliato, ma insomma sbagliare si può, succede, non è che se uno è in carcere basta, è finito, è fine della vita. Non insomma. Bruciamo così però tutti gli argomenti. No, certo. Ma in realtà mi ha incuriosito questa preoccupazione che sento in giro delle persone che sono preoccupate perché devono pagare una nuova tassa su tablet, smartphone e quant'altro. In realtà, che è una cosiddetta tassa della SIAE, in realtà non è esattamente una tassa, ma è diciamo la rideterminazione dei compensi per copia privata, si dice, però viene fatta da parte dei produttori, quindi in questo momento sono già i produttori che pagano 90 centesimi per gli smartphone, non pagano nulla per i tablet e pagano 1,90 euro per i computer, e adesso si vogliono ridefinire queste cifre, cioè aumentare queste cifre portandole fino a 6 euro. Sì. Ovvio che poi in qualche modo anche noi le pagheremo, perché se i produttori devono pagarle, gli smartphone costeranno un paio di euro in più e così via. In realtà si tratta di una tassa cosiddetta per gli autori, diciamo, per la SIAE, perché siccome su questi device, su questi oggetti vengono mostrati, si possono vedere dei contenuti che hanno, dei contenuti culturali che hanno, quindi la maggior parte delle volte un autore dietro, è un modo per cui la SIAE prende dei soldi e poi dovrebbe ridistribuirli agli autori. La grande domanda è come verranno ridistribuiti, perché come faccio io a sapere che cosa guardi, sì, tu sul tuo smartphone? Però la grande domanda invece del consumatore, l'hai detto tu giustamente, la preoccupazione è quella di dire: cavolo, devo pagare un'altra tassa sul tablet. Però sappiamo per esempio che in Francia la tassa sui tablet esiste proprio ed esplicitamente perché è una tassa per la cultura. Esatto. Cioè si pigliano i soldi dalla Samsung, dalla Apple, ma anche dalle tasche del consumatore, alla fine, certo, per dargli a cinema, teatri, autori, sceneggiatori, sì, per dargli alla società degli autori, è una scelta che in realtà poi li ridistribuisce. Però questo è un po' tutta la questione della SIAE, che è sempre un po' un problema, la questione di come poi si dividono questi soldi, perché ovviamente gli artisti più famosi, diciamo, sì, hanno sono conosciuti, e quindi è anche facile riconoscere quante volte io sento una canzone di Lucio Dalla. Però diventa più difficile invece sentire quante volte uno su uno smartphone magari ha guardato il video del proprio vicino di casa che ha una piccola band, e uno si dice: arriveranno dei soldi anche a quella piccola band? È molto difficile all'inizio, ovviamente. E tra l'altro noi vogliamo sentire il vostro punto di vista, cari ascoltatori, proprio su questo. 800 24 00 24, da quale piatto della bilancia pendete, cioè se preferite risparmiare i soldi sul tablet però fregandovene, diciamo, dei compensi degli autori, oppure se pensate che sia giusto che chi produce i contenuti ci guadagni giustamente qualcosa anche attraverso questo meccanismo. C'è una notizia, vogliamo darla? Sono ripartita la base per caso, però coincide con la notizia. Abbiamo la prima medaglia italiana ai giochi. Oh, bello Sochi. Dare in diretta le notizie. Cavolo, è l'azzurro Christoph Innerhofer che ha conquistato l'argento nella discesa libera, gara inaugurale dello sci alpino. L'oro è andato manco a farla apposta all'austriaco Matthias Mayer, che noi conosciamo benissimo, ovviamente. Beh, io ho detto manca a farla apposta perché gli austriaci vincono sempre loro. Insomma, poi da un Mayer si passa all'altro. Credo io che spero Mayer che vinca molto la Germania, anche solamente per le tutine arcobaleno che si sono messi. È vero. Ma alla, tu hai capito alla cerimonia d'apertura di Sochi. Poi si è capito se era una provocazione, se non era una provocazione, che loro hanno detto non è la cosa arcobaleno, non è la bandiera arcobaleno. Esatto, perché in realtà non sono tutti i colori della bandiera arcobaleno, sì, ci sono alcuni colori della bandiera arcobaleno. Credo che in realtà lì poi c'è una questione diplomatica, nel senso che questa sia una scelta è abbastanza ovvio, perché tu vai a Sochi, che sono, diciamo, le Olimpiadi dell'omofobia, come vengono definite, per tutto quello che sta succedendo agli omosessuali in Russia. Quindi è ovvio che non è che succeda per caso questa cosa di mettersi la tutina. Però diciamo che non hanno messo tutti i colori, di modo anche da non avere il problema di dire: ma come, tu arrivi, sì, cambi la divisa proprio per le nostre, sì, Olimpiadi. Questo, però di fatto, sembra, insomma, il messaggio è arrivato. Il messaggio mi sembra molto chiaro e molto preciso. Questa cosa della Germania, devo dire, perché insomma, quando c'è bisogno, ma un po' secondo me la testa. Esatto, bravissimo, perché un po' quello che, sì, ci è piaciuto è questo, che sì, la Merkel non era all'inaugurazione, Letta sì, esattamente, è il momento in cui un po' invidi, diciamo, sì, la potenza, dici: si potesse essere anche noi così, sì, forti da dire: sai che c'è, voi ammazzate gli omosessuali per strada, sì, benissimo, allora noi non veniamo, abbiamo altro da fare, grazie, pazienza, sì, sì, stiamo qua a giocare a pallette di neve a casa nostra. Secondo me sarebbe stato meglio e più dignitoso. Allora, abbiamo già qualche telefonata, 800 24 00 24, poi dobbiamo dare il primo indizio per il personaggio della settimana, eh? ci sono, quindi cosa facciamo, lo diamo adesso? Sì, secondo me sì. Sì, dai, iniziamo. Vado io? Sì, vado io? Tu. Non è un personaggio italiano. Non è un personaggio italiano. È sufficiente? Però, sì, aggiungiamo una piccola cosa che di rinforzo, che questa volta è proprio positivo, un personaggio positivo. C'è una notizia che lo riguarda, positiva. Mi sembra molto corretto. Anna da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io sono intervenuta perché penso la trasmissione dice sempre si può fare, e a me piacerebbe fare la stagista. Ora non rubare il posto di Gabardini, ma invece è giusto, perché cioè, io penso che l'opinione ora l'uomo della strada è una donna, quindi della donna della strada non si può dire. A lei giustamente vorrebbe inaugurare questa figura, la donna della strada, però detto così non è che suoni benissimo. Avrete un senso diverso, comunque, sì. L'opinione di qualcuno che vive al di fuori e che vive la vita di tutti i giorni, sì. Forse sarebbe così. Una o due trasmissioni, intervenire. Ma proviamo subito, Anna, proviamo subito a vedere, ci dia un'opinione così a caso su un argomento. Esempio le carceri. Ecco. Cioè le carceri, che si parla di carceri, noi che facciamo? Spendiamo moltissimi soldi per fare i processi, per prendere prima i delinquenti, e fare i processi e tutto, dopodiché non c'è posto, li mandiamo via, il che è assurdo. Lo Stato vende moltissimi, cerca di vendere i suoi beni, e potrebbe... Perché a Roma ci sono un sacco di caserme in Viale delle Milizie, potrebbe trasformare questi edifici. Cioè, non trasformarli in che cosa? In nuove carceri, vuol dire, Anna? Ad esempio, in queste caserme al centro della città, le persone meno pericolose, invece di mandarle a casa, potrebbero trasferirle lì, controllarle. Cioè sta dicendo che non bisogna mandarle a casa, ma dobbiamo fare più carcere, avere più carcere anche un po' in centro, tutti pieni. Ma se rimandiamo a casa, perché le carceri sono piene, la logica dice che non mandiamole a casa, aumentiamo il numero delle carceri. Cioè, devo dire che nuovo. Anna ha detto una cosa giusta, cioè si fa tanto sforzo in termini di polizia e di giustizia per prendere i colpevoli e poi si buttano fuori subito con lo svuota carceri. No, però Anna, non semplifichiamo troppo le cose, perché però abbiamo le carceri strapiene. No, ma non solo questo, quindi... in realtà no. Anna, in realtà però non semplifichiamo troppo le cose, perché non è che li mandiamo via, c'è il braccialetto elettronico, ci sono le pene alternative per i tossicodipendenti, si è deciso di alzare il livello della pena, per esempio, che può essere scontata nelle comunità terapeutiche, ed è giusto, perché un tossicodipendente non ci fa nulla in galera. Quindi queste sono cose che vanno valutate in sé per sé. Non è svuota carcere, è un po' semplificativo, perché poi c'è anche un elemento di svuota carcere, cioè l'accorciamento, anzi l'allungamento, c'è un meccanismo per il quale insomma si scorciano anche le pene, è una sorta di amnistia nascosta, questo sì, però tutte le altre cose non e sono. E forse chi è in carcere per due spinelli, quello può tornare a casa, che dice signora? Però insomma Anna si candida a fare l'opinionista, la stagista opinionista si può fare. Anna, magari, che ne so, ci si può anche pensare. Ma io le do il mio posto, soprattutto la prima ora, quella la mattina dove non riesco veramente neanche a svegliarmi. Quindi se vuole... Ma io non voglio sostituirla assolutamente, non ne ho la capacità. Ma come no? Ma invece è bravissima. Voglio dire una cosa, nelle carceri non penso che... Ma mi chiedo, anche queste persone devono andare in comunità. Ci sono le file per andare in comunità. Trasformare molti di questi edifici dello Stato che non vengono utilizzati per fare comunità, per accogliere detenuti. Va bene, questo è giusto, Anna. La riconversione degli edifici è una cosa giusta. In comunità mi sembra anche più bello che convertire tutti gli edifici in nuovi carceri, che mi sembra troppo. Perché dico nuovi carceri? Le carceri si dice, ho sbagliato. È una cosa scusa. Che manda sempre in tilt il cervello anche sbagliato. A me. Alessandra dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono qui probabilmente a dire una cosa che è già stata detta dalla signora, e cioè con tutti gli edifici che sono stati sequestrati, sia la mafia, sia coloro che non hanno fatto utilizzo di questi edifici o che li hanno lasciati andare a ramengo, mi lasci questa parola. Bellissima questa parola. Si potrebbe, prego? È bellissima, andare a ramengo. A ramengo proprio, cose che si vedono anche attraverso Striscia la Notizia. Io direi, scusatemi, nei posti più probabili, più vicini, più comodi, meno costosi da ristrutturare, non si potrebbe ridurli a carceri e tenere dentro coloro che poi dopo poco tempo rifanno tutte le stesse cose che hanno fatto, vanno a rubare, si drogano, eccetera eccetera. Vabbè Alessandra, anche questo è un po' la fotocopia, coloro che hanno delle pene minori e coloro che hanno delle pene che rallentano le carceri. Però Alessandra, il punto non è soltanto l'ampiezza delle carceri, secondo me, io è questo che ci tengo a dirlo, perché è vero, si potrebbero riutilizzare edifici abbandonati dell'esercito, del demanio, sequestrati alla mafia per fare nuove carceri, questo si dice, poi non si fa, e lei ha ragione su questo, ma c'è un altro punto. Le pene scontate dentro il carcere, punto e basta, fanno aumentare le percentuali di recidiva, cioè carcerati che poi escono e tornano a commettere reati. quelli che vengono coinvolti in pene alternative, pene riparative, per esempio chi fa un omicidio con l'automobile va a fare il volontariato nelle associazioni delle vittime della strada. Questa cosa qua la fanno per esempio a Brescia, funziona moltissimo. Questa è gente che paga una pena maggiore addirittura, perché c'è una pena morale. E questo fa sì che l'effetto, diciamo, di rieducazione sia molto più forte. E questo dobbiamo averlo a cuore tutti. È inutile pensare di sbattere la gente in galera e di risolvere i problemi così. Sono perché pienamente d'accordo. Che non è questo che risolve i problemi, questo lo dicono le statistiche. E in più va detto che se questi palazzi, come sì, stanno dicendo le nostre due ascoltatrici, i palazzi del centro belli così, venissero trasformati in carcere, qualcuno direbbe: ma come, questi palazzi bellissimi che sono in centro li diamo ai carcerati? Bisognerebbe trasformarli assolutamente in dei bellissimi musei, in delle pizzerie. Aurora da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Nessuno, però, nessuno vuole indovinare il personaggio della settimana, eh? Mi raccomando, Aurora, un personaggio straniero positivo della settimana si vince il corso BBC English, un corso di inglese della BBC, molto bello, eh? Bene, io invece volevo parlare dell'esperienza che ho avuto con i ragazzi della mia classe, i ragazzi di quinta elementare, con detenuti nel carcere di Rebibbia, che una volta alla settimana si incontravano con noi per poter costruire un parco giochi che avevamo progettato. Che è bello. Stata un'esperienza molto formativa per tutti. Il parco giochi, allora, il parco giochi dove? Nella vostra scuola? Nel nostro quartiere, a Sette Cammini, al centro culturale di Sette Cammini. E noi uscivamo dalla scuola, a volte alcune volte sono venuti anche da noi, abbiamo costruito anche l'Italia in miniatura, cioè diverse cose, ma quello che mi premeva sottolineare è il rapporto che si è venuto a creare tra queste persone e i ragazzi. Devo dire che alla fine avevamo ricevuto delle lettere da parte di alcuni detenuti che ci ringraziavano per questa esperienza, perché molti avevano imparato ad avere un rapporto con i figli che prima non avevano, quindi hanno potuto riprogettare un rapporto con i propri figli dopo questa esperienza. Ecco, è avvenuta alla fine degli anni 80, quindi intorno a 90. Ma è stato difficile, Aurora, fare questo progetto? È stata un'esperienza molto formativa anche per i genitori dei miei alunni, che in un primo momento erano piuttosto titubanti, poi invece molto probabilmente la stima nei confronti miei che proponevo questa esperienza alla fine si è conclusa con un pranzo, hanno preparato un pranzo per noi. Credo che insomma le preoccupazioni dei genitori siano legittime, però è vero che questi percorsi di incontro tra i giovani e i carcerati servono anche ai ragazzi per fermarsi un passo prima, no? A volte pensarci bene. No, le volevamo chiedere se è stato difficile fare questo progetto dentro quei carcerati, allora, perché sappiamo che c'è una burocrazia anche in questo. No, qui era coinvolto il quinto municipio, sì, e quindi è andato tutto bene. Le carceri di Rebibbia, e io come scuola avevo dato la mia disponibilità. Va bene. Grazie Aurora, grazie mille per essere stata grazie con noi. Grazie mille. Buona domenica. L'abbiamo detto un unisono incredibile questo buona domenica. Sembra che ce ne siamo messi d'accordo. Esatto. Il traffico. Poi mi sa che dobbiamo dare un altro indizio, perché forse qualcuno sta chiamando per il personaggio. Vediamo. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Proviamo ad inaugurare una nuova rubrica, l'angolo della petizione. Ce ne sono tante, no? Petizioni di quartiere, di città, per chiedere la qualunque. A volte anche cose molto belle, però. cerchiamo di selezionare quelle le migliori, non le peggiori, ecco. Le più belle petizioni d'Italia. Partiamo con Napoli. La petizione per la riapertura del cinema Arcobaleno del centro città. Ne parliamo con Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto. Intanto, perché i Valori Collinari? Cos'è il Comitato Valori Collinari? Ce lo spieghi, perché io ho un insider, Giorgio De Luca, che è di Napoli, che le sa. Però spieghiamole, no, queste cose. Cosa vuol dire Valori Collinari? Vabbè, Napoli è una bellissima città che è sul mare, però dietro questa città ci sono una serie di colline. Di colline. Dove si estende poi, specialmente nel periodo dopo il 1960, si è estesa tutta la città, e quindi il Vomero, l'Arenella, i Camaldoli, ecco, e così via. Quindi voi non vi interessate del mare, ma solo della collina? Ma diciamo che dalla collina partono segnali per tutta la città e quindi ci interessiamo tutta la città. Sì, è vero che, per esempio, io che non conosco moltissimo Napoli, ho l'immagine di Napoli del lungomare, ma questo aspetto della collina è interessante. Chiunque conosce Napoli sa che sto dicendo una cosa, come dire, cioè, che tutti sanno, perché bene, ci sono colline, però mi piaceva ribadirlo. Senta, perché la petizione per riaprire il cinema Arcobaleno? Intanto, quando ha chiuso e perché il cinema Arcobaleno? Il cinema Arcobaleno ha chiuso due domeniche fa, per l'esattezza il 26 gennaio c'è stata l'ultima proiezione. Le motivazioni sono varie, perché non si è ben capita questa storia. Tra l'altro è l'ultimo di una catena di chiusure, perché al Vomero, che era considerato, pochi lo sanno, la Cinecittà di Napoli, quando nasce all'inizio del secolo scorso, il primo stabilimento cinematografico d'Italia, da cui poi è scaturita la Titanus. Quindi il Vomero si caratterizzava per questa produzione cinematografica, aveva ben 8 sale cinematografiche sul territorio di appena 2 km quadrati. Nel tempo, con la chiusura dell'Arcobaleno, ne sono scomparse 6 e quindi ne sono rimasti soltanto 2. Consideriamo che i cinema sono dei grossi punti di aggregazione sociale. Quindi, ma hanno chiuso tutti? No, mi scusi, non ho capito. Prego. C'erano 8 cinema e su questi 8, 6 hanno chiuso? Sì, e non sì. Ci sono altri cinema, oppure hanno aperto le multisala? Assolutamente al Vomero no. No. Si erano trasformati alcuni di questi cinema, che originariamente erano sale singole, in multisale, compresa appunto l'Arcobaleno, che diciamo fino a quando è stata aperta avevo 4 sale. È una tendenza che purtroppo riguarda un po' molte città. Si vede magari aprire ogni tanto qualche multisala fuori in periferia, per esempio a Milano ce ne sono parecchi, però gli storici cinema del centro, quelli a cui magari ci sono gli appassionati che sono più affezionati, e comunque servono anche a tenere in vita un po' il centro storico, con punti di aggregazione, assolutamente. Questi spariscono. Ma poi questo era un cinema, scusi, sta dicendo che era un cinema con 4 sale, quindi non era il classico cinemino che noi ci immaginiamo che chiude. No, assolutamente. E come mai chiude? Infatti dice è un po' oscuro il motivo per cui ha chiuso. Chissà. Allora, io diciamo, dalle interviste rilasciate dalla società che lo gestiva, deduco che, a parte, va bene, il problema della crisi, della riduzione degli spettatori, c'era un problema che bisognava trasformare, in base alle nuove norme sul settore audiovisivo, bisognava ammodernarlo secondo le ultime tecnologie, quella del 4K, diciamo così. Sì, c'è stato anche questo. Sì, è la questione adesso è il digitale. L'arrivo del digitale. Non c'è più pellicola, ma c'è solo il digitale. Senta, però ci tolga anche un po' una curiosità a questo punto. Intanto poi ci dice anche come si fa a firmare questa petizione che state facendo. Come volete che riapra? C'è un progetto? Avete in mente? Volete coinvolgere qualcuno? Perché evidentemente, insomma, per fare riaprire questo cinema ci vuole un'idea, un progetto, una qualche idea, ecco, credo, no? Allora, innanzitutto, in base a un progetto europeo che è il Media 2007, tutte le regioni italiane, la Campania compreso, hanno predisposto degli appositi stanziamenti per aiutare queste sale cinematografiche, questo lo sanno in pochi. La regione Campania, ma anche la Lombardia, il Piemonte, la Campania nel novembre dell'anno scorso ha varato un provvedimento con un contributo di 2 milioni di euro per favorire con contributi a fondo perduto, il regime de minimis, queste sale cinematografiche. Anche questa sala ha ricevuto questo contributo, cioè è stato inserito tra le ammissibili, per un importo richiesto di circa 150.000 euro, ne ha avuto ammessa per circa la metà. Chiaramente adesso si tratta di fare uno sforzo mettendo attorno a un tavolo tutti gli enti competenti, quindi regione, provincia, comune, sì, per cercare di aiutare questi operatori, anche perché un altro cinema che sta a poche centinaia di metri, il Vittoria, proprio in questi giorni ha festeggiato il 75esimo anno di vita e si è completamente ammodernato. Ah, ecco, quindi insomma voi dite le possibilità ci sono, il mercato c'è e i fondi pure, bisogna che insomma tutte le persone di buona volontà si mettano intorno a un tavolo per rilanciare questo cinema arcobaleno del Vomero a Napoli. Noi la ringraziamo, Gennaro Capodanno, per essere stato con noi. Sì, soltanto dire una cosa, noi stiamo organizzando un flash mob per sabato prossimo. E per la petizione è presente su internet al sito di Ava. E chi vuole firmare la firma? Abbiamo già superato le 1100 firme. Benissimo, benissimo. Grazie, abbiamo detto anche questo. Grazie, grazie, bocca al lupo. Grazie, auguri. Questa era la prima petizione. Abbiamo inaugurato l'angolo della petizione. Ho dell'affetto anche perché io ho vissuto sopra il cinema arcobaleno a Milano per tutta la vita. Quindi è proprio che non è una grande che non inizia, è chiuso, però. Che non l'ha chiuso, no, per il momento no. Raffaella da Roma, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Tocca a lei. Allora, volevo dire che secondo me il personaggio positivo della settimana poteva essere il naufrago che è stato ritrovato alle Isole Marshall dopo 13 mesi. Ah, bella questa notizia, è molto bella. È vero, poteva starci, poteva assolutamente starci. Assolutamente sì. Non è lui però, non è lui, grazie Raffaella. C'è qualche affinità? Forse no, no. No, no, il nostro pensiero. Volendo siamo... affinità. Sono sempre esseri umani, diciamo. Sono quindi un'affinità c'è. Allora, stavo per dire un'affinità, ma la dico dopo questa telefonata. Sandro da Pescara, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, secondo me può essere Papa Francesco. Per quale motivo Papa Francesco questa settimana in particolare? Beh, perché ha parlato dell'ipocrisia, del miglioramento del pettegolezzo, per esempio. Solo per quello, insomma. È vero, è vero. Beh, Papa Francesco, insomma, in quanto Papa vale tutte le settimane, vale quasi tutte le settimane. Però non è lui, non è lui. Grazie Sandro. Cosa volevo dire? Sì, volevo dire quell'indizio, diciamo il collegamento, l'affinità tra il naufrago dell'isola e il nostro personaggio, che sono un po' tutti e due degli outsider. Sì, giusto. Così stiamo andando, oggi stiamo andando, secondo me la stiamo indoviniamo presto. Sì, sì, sì. Allora, adesso il giornale radio, ci sarà il collegamento da Sochi, dove potremo commentare la prima medaglia italiana. Intanto Innerhofer è in testa su Twitter, sui trending topic testa, perché diciamo i twitteri seguono. Torniamo lo sport subito dopo. 800 24 00 24, giornale radio. Si può fare cronache da un paese migliore. Questa era la nostra canzone di oggi, la vostra canzone, il vostro si può fare, vi invitiamo a segnalarcela. Questa era Stefano Manzotti, l'ascoltatore, che ci ha segnalato We Are The Champions dei Queen. Non c'è neanche da stare a spiegare perché il si può fare di Stefano, si capisce dal testo di questa celebre canzone, che tra l'altro insomma la vogliamo dedicare subito a Innerhofer, fresco vincitore della medaglia d'argento, e scattano gli applausi anche in regia. Italia, perché siamo stati lesti a fare questa associazione. Carlo, eccomi. Inerofer, che bella medaglia, eh? Bellissima, la prima, sarà bellissima. Anche l'unica forse. No, come l'unica? Speriamo di no, assolutamente. E grazie all'ascoltatore Stefano Manzotti. Andiamo a sentire invece i vostri interventi in diretta. Chi sentiamo? Sentiamo Mirella da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo intervenire innanzitutto, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo intervenire a proposito del reinserimento sociale delle persone che stanno nei penitenziari. Sì. E voi avete parlato di questi grandi palazzi anche nei centri della città, dismessi. No, ne hanno parlato gli ascoltatori, è un tema che ha appassionato. Noi abbiamo parlato del fatto che in Germania li fanno lavorare, ecco. E i carceri sono come delle imprese, sì. A proposito di questo, ecco, infatti volevo dire, si potrebbe fare una cosa combinata, sì. e prendere queste persone e farle lavorare ricostruendo questi palazzi. Cioè, abbiamo un'emergenza per esempio abitativa, sì. Facciamo sì che queste case diventino case che possono essere abitate e date alle persone che hanno bisogno. Secondo me insegniamo un mestiere alle persone che stanno in carcere, diamo dignità a loro e facciamo anche qualcosa di utile a livello sociale, no? Mirella, grazie per questo suggerimento. Secondo me è una cosa da prendere sul serio, non è solo una provocazione, perché, ripetiamo, in Germania succede, non nei termini che diceva lei, cioè si lavora dentro il carcere, però insomma, perché no? Perché non farli lavorare nell'edilizia o, come proponeva tempo fa il sindaco di Berceto, nella manutenzione del territorio sull'Appennino, no? Sono tante le cose che si possono fare. Paola da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego, tocca a lei. Ah, io telefonavo per il quiz. Sì. Ci dica, secondo siamo qui. Me è Tsipras, Alexis Tsipras. Alexis, perché? Vabbè, il motivo del... Beh, perché rappresenta nella situazione greca così disastrata, sì. Proprio da quel punto parte una possibilità, sì. Diversa di intendere la politica e anche le situazioni economiche. Sì, no, ma intendevo perché questa settimana Tsipras? Tsipras è venuto a Roma, è, sì. Stato al Valle. Brava, la stavo interrogando. No, ma noi lo sappiamo, è che questo è anche un modo, diciamo, per dare delle notizie, sì. Belle, brutte che siano, per ripetere, in questo caso belle. Per fare il ripasso delle notizie della settimana. Sì. Non è Tsipras, anche se in effetti erano dei personaggi papabili. Papabili, in effetti, sì, sì, sì. Il bello della sinistra, scrive oggi qualche giornale. A lei piace, visto che è una signora, Paola? Tsipras, sì. No, lo dico politicamente, ma anche così fisicamente. Cioè, visto che è una signora. Sì. Beh, insomma, non guasta, no, per un leader politico. Vabbè, in Grecia ha preso quasi il 30%, in effetti è un fenomeno interessante, e vedremo se farà breccia, non solo nella sinistra, ma anche un po' da tutte le parti. Però non era lui. Ci spiace. Grazie Paola. Può richiamarci con un'altra soluzione. Io per l'angolo della petizione volevo aggiungere una petizione per cui vengano ricaricati qui a Radio 24 i distributori dell'acqua, perché ci ho messo un sacco di tempo perché non trovo un distributore che abbia dell'acqua, cioè, e sono tutte selezione vuota. Sono selezione tutte vuota. Firmo anch'io se la fai. Enrico da Milano, buongiorno. Buongiorno, io mi volevo riferire al discorso sulla tassa, la nuova misura della tassa su smartphone, computer, eccetera. Prego. Premesso che ritengo che sia giusta questa misura, anche il problema è quello, come avete segnalato voi, della distribuzione da parte della SIAE. Allora vi volevo illustrare il meccanismo che specialmente penalizza gli autori. Ma lei perché lo conosce così bene questo meccanismo? È lei stesso un autore? Dunque, io sono un altro mestiere, però. Ma pensavamo fosse politica. Gino Paoli, che è il presidente della SIAE, pensavamo che fosse lei. In incognito. No. Le avremmo chiesto di cantare una canzone. Non sono Gino Paoli. Ci dica. Anzi, se fossi Gino Paoli non le avrei telefonato, perché non avrei denunciato questo meccanismo che favorisce Gino Paoli e penalizza Enrico, come Enrico tante altre persone. Enrico, che è lei. Esattamente. Perfetto. Perché... Ci dica. Io, come tanti altri, vado a suonare nei locali, faccio magari qualche concerto, eccetera. Quando termino il concerto devo fare quello strumento che si chiama il bordereau. Cioè l'elenco dei pezzi registrati. Certo. Fino a un po' di anni fa, tante volte io eseguivo dei brani miei e tante volte mi venivano riconosciuti. La SIAE fa degli accertamenti, nel senso che manda in giro delle persone, dei privati, i quali quali verificano che il bordero sia conforme a quello che è stato suonato. Siccome sono emerse parecchie, devo dire, contestazioni, eccetera, allora si è applicato il principio che siccome alcuni rubano, tutti rubano. Naturalmente. E allora vuol dire che questo bordereau non costituisce più lo strumento sul quale basare la ripartizione dei diritti, o meglio lo costituisce, ma in base a dei principi per cui se questo brano o questi brani sono eseguiti, le spiego, non sono neanche io in grado di dirlo perché è una specie di algoritmo inventato che praticamente significa che siccome tu suoni poco quel brano non verrà eseguito, abbiamo capito. C'è una, diciamo, una previsione e allora il diritto non c'è. Però spieghiamo un po' come per lo studio di settore, che esatto, è una cosa presunta. Io vorrei sapere se Gabardini condivide questo punto di vista. No, la prima cosa che voglio dire è che per spiegare, perché che cosa succede quando uno fa uno spettacolo o canta o un concerto, qualunque cosa, alla fine si compila il cosiddetto bordereau, dove si scrive: io oggi ho cantato questa canzone, quest'altra canzone, quest'altra canzone. Che cosa succede? Che molta gente magari canta Vasco e invece poi nel bordereau scrive: ho cantato tutte le canzoni di mia mamma, di modo che i soldi vadano alla propria madre. Questo è diciamo la presunzione del fatto che uno dice: non è vero, tu canti solamente canzoni famose e poi dopo segni che scrivi le canzoni tue, di modo che ti prendi tu la SIAE. Però l'ascoltatore diceva un'altra cosa. Esatto, lui dice adesso questo, siccome la presunzione è stato fatto con un algoritmo per cui i più grandi vengono cantati più spesso e i minori piccoli vengono cantati meno. Però in questo sistema effettivamente è fallace, perché fa sì che uno, se è piccolo e invece viene suonato tantissimo, non diventa mai il grande. Esattamente. Sarebbe lo stesso principio per cui, siccome in Italia ci sono 100.000 ladri, tutti dovrebbero essere associati alle carceri perché si presume che tutti rubino. Va bene, certo. Enrico, grazie per averci chiamato e averci dato il suo punto di vista su questo. Ci ha spiegato un po' anche questo meccanismo che sappiamo essere complesso. Vabbè, insomma, vedremo, non lo so. Insomma, noi volevamo solo sollevare un po' la questione. La questione, sì, poi in realtà. Soprattutto poi, questo poi è una sottoquestione: se sia redistribuito bene o male i soldi agli autori. L'altra questione è se è giusto tassare i tablet per dare i soldi agli autori, che era la questione da cui siamo partiti. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. A Marinella volata su una stella, la sua e che i due palle ci aveva fatto Lisa dagli occhi blu, così dopo signora lì e passerotto non andare via con la mia dedicata alla Maria. Ricordo quando l'ho incontrata al parco 7 anni or sono, vestita in verde con quel suo profumo buono, stava con un mio amico che mi ha chiesto: me la tieni? Devo andare all'aeroporto e lei non va d'accordo tanto con i cani. Non ci sono problemi, fidati di me, che intanto che tu vai facendo il chiacchiere, e anche già a quei tempi ero poco più di un bebè, sono corso a casa mia con la Maria a farmi un tè. Non ballare troppo, Gabardini, perché non ti si vede. Lo posso dire, poi gli ascoltatori dicono che tu sei interessato a questo tema della cannabis. Ma no, per un più conflitto personale di interesse. Al tema del ballo sono interessato. Voglio diventare un ballerino. Oh, vabbè, perché nel dibattito sull'uso della cannabis a scopo terapeutico, del quale noi ci occupiamo molto spesso, ci occupiamo, anche se non ci capiamo granché in termini scientifici, però sappiamo che questa cosa si sta facendo e che la chiedono i malati di alcune malattie, artrite reumatoide, SLA, eccetera. Nel dibattito si è inserito un sindaco, il sindaco di Racale, in provincia di Lecce, che dice: ma ve la produco io la cannabis, perché dobbiamo andarla a comprare per canali strani? Siccome in Italia non si può produrre, si è proposto di fare proprio questo. E allora, siccome primo passo verso una liberalizzazione blanda che noi sosteniamo, vogliamo sentirlo questo sindaco. Donato Metallo, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. Buongiorno. Ho detto bene Racale o Racale? Racale. Avevo indovinato per una volta la pronuncia. Senta, che cos'è che vuol fare lei esattamente? Ci dica un po'. Prima di tutto cosa vogliamo fare noi, perché è importante, no, socializzare questo argomento. Giusto. Tutto è nato un anno fa, quando alcuni malati hanno creato questa associazione, l'associazione si chiama La Piantiamo, raccontandomi un po' i problemi che loro avevano. Loro, diciamo, sono della regione Puglia e, potendo usare questo termine, sono anche fortunati perché il servizio sanitario regionale passa il farmaco in questione, che è il Bedrocan, il farmaco a base di cannabis. Avevano però dei problemi sulle forniture, perché avevano delle interruzioni delle forniture nelle prescrizioni, e facevano questa lotta, la cosa più bella, anche per gli altri malati delle altre regioni, dove invece il servizio sanitario regionale non passa. Non lo passa. Senta, scusi, una curiosità intanto, questo Bedrocan, chi lo produce e dove viene prodotto? In Italia, all'estero? Viene prodotto in Olanda e importato dall'Olanda. Se il servizio sanitario regionale non paga, arriva arriva nelle nostre farmacie, nelle farmacie sì, diciamo ospedaliere, ai costi di 30, dai 35 ai 45 euro al grammo. Ok, benissimo. Ma mi scusi, perché ci tocca anche un altro dubbio che abbiamo sempre qui. Come viene assunta la cannabis o il THC, che è il principio attivo della marijuana? Sì, i modi di assunzione sono diversi, dal tipo aerosol, dai biscotti o dalle torte a base di cannabis, ma anche nel fumarlo subito, perché ha l'assunzione diretta e i malati mi dicono che arriva prima e gli effetti. Arriva prima. Quindi scusi, viene anche fumato. Ma questo Bedrocan invece sì, in che forma arriva? Dovrebbe, io l'ho visto, è proprio cannabis, cioè quindi si chiama marijuana, diciamo, sono è marijuana, classica, chiaramente, però diciamo certificata con tutti i controlli. No, ma questo no, perché ci chiedevamo se appunto i malati poi la dovessero assumere fumando, ci sembrava un po' strano che in ospedale dice ecco adesso arriva il giro di canne, ci chiedevamo, invece effettivamente lei ci può sta dicendo aerosol, ha detto biscotti oppure anche questo, però torniamo un po' come a Leon Cavallo, diciamo, torniamo a noi. Voi siete partiti da questa richiesta, quindi diciamo vi inserite in questo dibattito sull'uso terapeutico della cannabis, e per arrivare a quale proposta però? La proposta che abbiamo dettagliato poi nel corso del tempo, che ha visto anche la regione Puglia appoggiare questa battaglia, è quella diciamo di coltivarla in loco, non per forza nel comune di Raga, l'importante è coltivarla in loco. La regione Puglia adesso ha contattato anche le università del territorio e le ASL competenti, in modo da mettersi insieme, fare un progetto pilota, cercare di coltivarla. Questo porterebbe ad abbassare il costo notevolmente e soprattutto porterebbe i malati a non avere quella interruzione, a poter assumerla tranquillamente. E ma quel risparmio, sì, chi dovrebbe coltivarla però? Cioè l'ente coltivatore, proprietario dei terreni, la regione? C'è la regione, ma c'è un progetto pilota dove concorrono vari enti istituzionali, no? Dalle ASL alle università alla regione Puglia, che si sta facendo carico adesso di questo progetto insieme all'associazione. Però lei ha individuato anche i terreni, almeno così scrivono i giornali, è vero? Diciamo che sì, i giornali hanno scritto così, però non è proprio così, perché i terreni sono stati acquistati già dall'associazione stessa, dalla Piantiamo. È chiaro che in base al progetto che si va a realizzare, perché l'idea nostra è di quel risparmio che c'è anche per la regione Puglia, di reinvestirlo in un centro di ricerca, un centro di fisioterapia per i malati. No, chiuderemo un circolo virtuoso, senza andare a spenderli in Olanda, la produciamo qui. Manteniamo eccellenze, perché lavorerebbero ricercatori, medici, biologi, agronomi, e quel risparmio che c'è si investe sui malati stessi. A me sembra diciamo una cosa molto razionale, che non ha punti. Beh, sì, detta così, assolutamente. Ma il clima è adatto, il clima pugliese per la cannabis? Guardate, io abito in un paese di 10.000 abitanti, no? Del sud Salento. È chiaro che all'inizio il percorso è stato difficile, però noi abbiamo fatto tantissimi incontri. Adesso se sentite i nostri cittadini è chiaro che dicono sì, se è prescritta dal medico, se comunque serve ai malati, noi siamo d'accordo. Qui noi, avendo un malato, poi dei malati sul territorio, diciamo tutti si immedesimano, può essere la figlia di chiunque o la mamma di chiunque, quindi di fronte a queste cose non si può partire con pregiudizi o preconcetti. Senta, ma per fare quello che dite voi bisogna cambiare qualche legge, fare una deroga a qualche legge, perché in Italia non si può coltivare, sì, no? Certo, e questo adesso è il problema principale. Vista la volontà delle parti di andare avanti, adesso ci sono stati due tavoli tecnici con la Regione Puglia, con i funzionari e con i legali, per cercare diciamo la strada migliore. Una potrebbe essere quella dell'autorizzazione ministeriale, quindi con la possibilità di coltivazione dopo autorizzazione ministeriale. Adesso è chiaro che è un processo, noi in fieri, e stiamo cercando di trovare altre strade, e quella che potrebbe portarci a realizzare il progetto e a dare anche stabilità a questo progetto. Insomma, quindi l'autorizzazione ministeriale, che potrebbe bypassare il problema. Potrebbe bypassare il problema, però in questo caso... Ma l'avete già fatta la richiesta, mi scusi, no, perché, per il passaggio. Siccome questa autorizzazione ministeriale porterebbe poi a un progetto pilota, a una forma di sperimentazione, si sta cercando di vedere se vi sono altre strade che assicurano anche un maggior impatto sui malati, perché questa potrebbe essere anche limitata solo a chi... Ma non ho capito, lei ha detto volete fare un progetto pilota anche sperimentale, scientifico, e però per quale motivo non volete chiedere invece l'autorizzazione al Ministero, che mi sembrerebbe la cosa più logica? a questo punto? Come le dicevo prima, siccome si tratta in questo caso poi di sperimentazione, sì, con autorizzazione ministeriale, i malati che usufruirebbero di questo, sì, servizio potrebbero essere in maniera ridotta, in numero ridotto, rispetto, okay, a quelli che noi cerchiamo. Però di potrebbe essere un modo per iniziare, perché non vorrei che per cercare, sì, la strada larga poi si rimane fermi, no, al però punto i tempi di partenza. I tempi li stiamo stringendo fortemente, sì, perché i tempi, io dico sempre, del malato non sono i tempi della politica. Quindi abbiamo fatto due tavoli di concertazione con la regione in 15 giorni, adesso ne abbiamo un altro fra 15 altri giorni, quindi stiamo accelerando su tutto. È chiaro che appena cerchiamo di vagliare prima tutto, prima di iniziare una strada, per non tornare indietro e perdere ulteriormente tempo. Senta, un'ultima cosa, lei è, credo che sia del PD o una lista civica associata al PD o qualcosa del genere? Sì, diciamo, eletto con lista civica, però io sono del PD, sì. Questo semplicemente perché in genere non chiediamo i partiti ai sindaci, sì, che raccontano le loro storie, perché ci interessano le storie, non i partiti che ci stanno, certo, dietro. Però in questo caso mi interessa sapere se l'arco, diciamo, parlamentare in piccolo vi sostiene, oppure se c'è una divisione tra sinistra più tradizionalmente favorevole a queste cose qua, allo spinello, diciamo, per sintetizzare, e la destra contraria, oppure se invece spinge tutta la comunità per questo progetto. Sono le larghe intese anche sulle canne, diciamo. Bravo Carlo. Guarda, allora, in Regione Puglia la proposta di legge è quella stata approvata precedentemente, che prevedeva l'uso, sì, terapeutico, anche un'estensione, è stata approvata all'unanimità da tutti i gruppi consigliari. Bene. Quindi siccome qui si parla solo di cannabis ad uso terapeutico, sì, la nostra battaglia adesso è questa. Sì. Su questo difficilmente riusciamo a trovare, diciamo, persone che si pongono in maniera contraria. Ecco, vabbè, no, non è che dovete trovarle per forza, anzi. No, no. Benissimo. Ma si riuscirà a coltivarla, quindi, la marijuana in Italia? Mi sembra un percorso ancora un po' ostacoli. Ma noi siamo molto fiduciosi, molto fiduciosi. Poi la forza che hanno, sì, i ragazzi dell'associazione La Piantiamo è devastante, quindi penso che... Beh, il nome è bellissimo, il nome La Piantiamo è bellissimo. No, me lo chiedevo perché immagino che ci sia un problema nel fatto di dire, da un lato va bene legalizzarla, dall'altro, nel momento che tu la coltivi, poi diventa difficile controllare che non venga venduta anche per uso privato, diciamo, no, e non per uso terapeutico. Tutto controllato, voglio dire, come succede in altri centri, quindi non questo problema, perfetto, non ci dovrebbe essere. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi, grazie, buona giornata. Buona giornata, buona domenica. Beh, insomma, vediamo, certo, un progetto con l'università, la regione, il ministero della salute, insomma, è una cosa seria. Perché qua, in realtà era già passata, se non sbaglio, sì, una legge per cui se per uso privato si può avere una pianta in casa, che sia un'unica piantina, però, sì, è difficile, a volte invece poi ti fanno il processo, a volte invece ci sono alcuni giudici, sì, che hanno... Sì. Che hanno, diciamo, ammesso l'uso privato e il fatto che avere una pianta non sia spaccio per forza. Adesso vi vogliamo far sentire una storia che più si può fare di così non può essere. L'integrale andrà in onda dopo il GR delle 20 stasera, uno speciale dedicato ai lavori di restauro del Colosseo, pensa, perché sono partiti in autunno, non lo sa nessuno, ci sono lì come si chiamano, i restauratori, insomma, che con... Ma è della valle, è quello? Perché adesso... abbiamo anche parlato, giusto, qua? Sì, non so esattamente se è quello, penso di sì. Lo scopriremo forse anche in questo breve estratto. Ottimo. Se no lo scopriremo nello speciale. Mi sono dichiarato ignorante. Alle 20, dedicato al Colosseo Lavori in Corsi. Questa è Gisella Capponi, direttrice dei lavori, al microfono di Anna Migliorati. Sentiamo. Quando sarà pulito, di che colore lo vedremo? Beh, diciamo una colorazione che va da un colore ocra leggero ambrato a proprio un ocra scuro. Arrivano anche a essere quasi neri questi ossalati. È questa patina del tempo, diciamo, che deve assolutamente rimanere sulla superficie, perché queste pellicole a ossalato sono insolubili. Quindi se si tolgono solo danneggiando anche la pietra che c'è sotto. Quindi paradossalmente, se lo pulissimo troppo sarebbe bianco, se lo pulissimo sarebbe bianco, ma se lo puliamo troppo si rovinerebbe troppo in fretta. Farlo diventare bianco, noi dovremmo consumare la superficie. Noi già sappiamo come verrà fuori la superficie, perché alla fine degli anni 90 qui la soprintendenza decise di fare un intervento di studio delle superfici, un grande tassello di pulitura. Quindi qui vediamo il colore diverso. Vediamo già il colore diverso. Qui adesso abbiamo fatto un sacco di campionamenti qui per vedere negli ultimi anni a Roma che cosa si è depositato, perché in realtà la situazione, diciamo, è migliorata la situazione romana, perché non ci sono più i riscaldamenti a gasolio, non ci sono più. Quindi scoprirete anche dal 98 al 2014 cosa si è depositato sul monumento e quindi cosa hanno respirato i romani, in sostanza. Esatto. Oh, questa era la bella storia del restauro del Colosseo. Adesso io però vorrei anche dagli ascoltatori all'800 24 00 24 che ci dicessero cosa ne pensano della proposta del sindaco Donato Metallo di Racale in provincia di Lecce, che vuole produrre cannabis nel territorio del suo comune per usarla a scopo terapeutico. Cioè lui dice: perché dobbiamo importarla dall'Olanda? Produciamola noi, visto che già negli ospedali della Puglia è consentito, esatto. È consentito. Mi sembra una proposta seria una volta tanto in questo campo. 800 24 00 24, ci abbiamo chi ci abbiamo? Marinella dalla provincia di Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo partecipare al quiz. Sì? Sì, ecco, io avrei pensato all'ambasciatore inglese in Italia. Per quale motivo? Guardi, il motivo l'abbiamo, più che altro me l'ha consigliato mio marito. Beh, ma questo non è perché è stato a Ballarò, se non sbaglio è stato, sì, era Ballarò martedì. L'abbiamo sentito a Ballarò e abbiamo, per il suo modo di parlare in confronto a tutti gli altri che facevano un gran casino, mentre lui sembrava una persona positiva e, ok, ecco, era molto British. Però scusi, mi incuriosisce questa dinamica per cui la risposta dal marito e poi chiama la moglie. No, perché mio marito sta guidando. Ah, sta guidando, siete in macchina. Sta guidando. Comunque siamo Marinella, macchina. Grazie, ma non era l'ambasciatore inglese, non so se ci... Lo dica suo marito. Pensavo che ci stessimo arrivando prima, ma forse tra poco ci arriveremo. Ancora siamo abbastanza lontani, ma del resto Antonella da Latina, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Sì, per quanto riguarda la cannabis in Puglia mi sembra un'ottima idea, perché in Puglia c'è una tradizione, c'è il tabacco, quindi è sempre roba da fumare. È perfetto. Vabbè. Però sì? Però io vorrei porre una domanda di fondo. Sì. Soprattutto sentendo il tono con cui voi parlate sempre di questa cosa della cannabis. Sì. Sì. E a parte l'uso terapeutico, perché si deve accettare che per divertirsi ci vuole o la cannabis o l'alcol? Guardi, non le rispondo perché non c'entra nulla, Antonella, non le rispondo perché non c'entra nulla con quello di cui abbiamo parlato noi. Quindi se lei, diciamo, è interessata, vuole rispettare anche il nostro punto di vista, perché ci fa questa domanda? Non c'entra proprio nulla. Abbiamo parlato di tutt'altro. Credo che per divertirsi ci sia bisogno va della bene, cannabis. Grazie. Vabbè, ma però giornata, sull'alcol, questi ascoltatori qua è inutile parlarci, perché vanno avanti per la loro strada, è inutile. Abbiamo parlato di altro, è come se avessimo parlato del giorno e questo vuol parlare della notte. Si può fare cronache da un paese migliore. You've got to share what you've got, even if you don't have a lot. A simple thing you can do with your friends and family too. Cities, share toys, share football, let's share books. You've got to share what you've got, even if you don't have a lot. A simple thing you can do with your friends and family too. Let's share lollies. Yeah, yeah. Sampling. Let's share. Let's share dei Sing Sings, lascia condividere testualmente, letteralmente, la scelta musicale di Andrea Piana per parlare del regolamento, il primo regolamento italiano per l'amministrazione condivisa, che verrà presentato a Bologna tra qualche giorno. Una cosa che sembra un po' complicata, ma sostanzialmente parliamo di volontariato, di come favorire il volontariato nelle città italiane, una grossa novità. ce la presenta Gregorio Arena, presidente di Labsus. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato. Buongiorno. Ben ritrovato. Ci lasci fare però un piccolo inciso, perché noi dobbiamo gestire anche il nostro contest per individuare il personaggio della settimana. Si vince un corso di inglese ai nostri microfoni. Dobbiamo dare un indizio? Sì, questa volta l'indizio lo do io. Il nostro personaggio ha a che fare con uno dei luoghi di cui abbiamo parlato stamattina nel programma. Abbiamo citato varie città, vari luoghi. Ecco, il nostro personaggio è ambientato in uno di questi luoghi. Caro Arena, intanto io ho detto due parole: regolamento per un'amministrazione condivisa. Che cosa è l'amministrazione condivisa, intanto, dal vostro punto di vista? Ha proprio a che fare con la canzone di prima, perché è proprio un modo di amministrare condividendo energie e risorse fra cittadini e amministrazioni. E il regolamento, se posso dirlo, è vero, sì, che il regolamento è complicato, perché insomma sono 36 articoli e le norme sono complicate, però si può spiegare che cos'è in maniera abbastanza semplice. Sì, ottimo. E parto da un'esperienza che ho avuto l'altro giorno. C'era un incontro con dei cittadini, parlavo del regolamento, un signore mi ha detto: ma scusi, ma che bisogno c'è di nuove leggi e nuove regole? Ci sono, certo, già tante in Italia. E dico: guardi, lei ha ragione. Dico: ma queste regole non sono regole che opprimono, ma che liberano energie. E lui dice: scusi, ma l'energia, se c'è, si manifesta da solo, non ha bisogno di regole. Allora io farei un esempio. Io insegno diritto amministrativo all'Università di Trento, sì, faccio un esempio legato alla montagna. Immaginate un lago artificiale in montagna, sì, no? Questa massa d'acqua enorme, e c'è la diga, e questa massa d'acqua preme sulla diga, quindi è un'energia pazzesca, però non c'è la turbina. Manca la turbina, e quindi tutta questa energia, che fuori di metafora è l'energia dei cittadini, non riesce a manifestarsi. Sì. Quello che noi abbiamo fatto col regolamento è costruire la turbina. Praticamente abbiamo creato una macchina, fra virgolette, insomma, giuridica, tecnica, che consente all'energia dei cittadini negli 8.000 comuni italiani di scatenarsi, ecco, migliorando, sì, la qualità della vita di tutti. Adesso poi veniamo anche all'appuntamento importante in cui presenterete questa cosa, sì, tra qualche giorno a Bologna, perché Bologna è stata la fucina di questa nuova idea. Vediamo se abbiamo capito bene. Noi qualche giorno fa ci siamo occupati del programma di una storia. Sul lago di Como c'erano due signori, un signore e una signora, lei disoccupata, lui pensionato, che volevano darsi volontari per ripulire il lago di Como. Però insomma c'era una serie di problemi burocratici con l'assessore che diceva: il battello non lo possono guidare, l'assicurazione, un lavoro rischioso, non si può fare. E noi siamo rimasti con le mani in mano. E mi dice che sostanzialmente quello che fate voi è cercare di risolvere un problema come questo? Esattamente. Se il comune di Como, dopo il 22 febbraio, quando il regolamento sarà stato pubblicato sul sito di Labsus, vorrà scaricarlo e adottarlo, e praticamente quel regolamento lì risolve quel problema lì. Perché sono anni che ci sentiamo dire dai, sì, cittadini che non si può fare. Beh, ci siamo stufati. tra l'altro a Bologna, questo regolamento nasce a Bologna per tutte le città italiane, ma nasce lì perché da alcuni anni si stanno facendo già dei progetti, delle sperimentazioni che funzionano. Ci vuole raccontare, per esempio, non so, uno di questi progetti o più di uno? Ma a Bologna c'è, diciamo così, questa magnifica bene culturale che sono i portici, no? Chilometri di portici, e c'è un problema legato al fatto che vengono sporcate le pareti dei portici da graffiti di vario genere, che insomma non hanno nulla di artistico in genere, e gli abitanti delle case che stanno sui portici vorrebbero ripulirli, però appunto si scontrano con problemi burocratici, con problemi legati al fatto che spesso sono beni tutelati, eccetera eccetera. Il regolamento a Bologna consentirà a centinaia di cittadini che vogliono tenere puliti i portici di farlo senza nessun problema, perché la cosa paradossale appunto è che queste energie ci sono, c'è il lago, c'è, però la burocrazia è la turbina che manca e la burocrazia impedisce a tutte queste energie di manifestarsi. Francamente è stupido, solo che penso che è difficile immaginarsi un regolamento come una turbina, quindi questa è la cosa che dobbiamo abituarci, oppure deve spiegare esattamente perché è proprio il regolamento che diventa turbina in qualche modo. Dunque, perché ha ragione. A noi il regolamento ci sembra invece una roba quasi che blocca l'acqua lì per sempre e buonanotte. No, al contrario, perché il problema è questo: che c'è in Costituzione dal 2001 un principio, il principio di sussidiarietà, un, sì, principio difficile anche da dire, che legittima i cittadini nella cura dei beni comuni. Ma, sì, siccome mancano le norme di livello amministrativo, mancano le leggi, finora le burocrazie si sono opposte dicendo: vabbè, ma io come faccio a applicare un principio costituzionale se non ho le norme di livello amministrativo? E noi gli abbiamo tolto l'alibi, perché abbiamo appunto tradotto il principio costituzionale in regole di livello amministrativo. Perfetto, secondo me adesso si è capito effettivamente che in realtà l'unione del fatto che c'è la legge, però poi si fa in modo che in realtà questa cosa non venga mai attuata, invece Bravo. Serve un regolamento anche più preciso, chiaro e vicino sì. ai cittadini, per cui queste cose poi avvengano realmente. Sì, perché il regolamento è dettagliato, prevede per esempio un patto di collaborazione fra cittadini e amministrazione con dei contenuti, cioè insomma i principi costituzionali sono importanti ma vanno tradotti, non si applicano da soli. Senta Rena, noi facciamo un avvicinamento alla data del 22 febbraio, quindi ci risentiamo magari o con lei o con qualcun altro del progetto per mettere in luce altri aspetti, magari anche la settimana prossima, e poi il giorno in cui ci sarà questa importante presentazione con il ministro Delrio, eccetera, sempre che non diventi nel frattempo ministro degli interni, perché oggi i giornali dicono che c'è questa possibilità. Vabbè. Beh, ma è quasi meglio, perché a quel punto si occupa di comuni proprio ancora di più di quanto non faccia adesso. Quindi, perché lui vi ha seguito in questo percorso e crede nella possibilità che questo regolamento possa davvero diventare un modello per tutta Italia. Grazie intanto per quello che avete fatto, grazie per quello mille. Che ci avete raccontato fin qua. Ci sentiamo presto per fare un avvicinamento alla data del 22 febbraio. Che tra l'altro è la finale di Sanremo, se non sbaglio, il 22 febbraio, giusto? Sì, è così. È sabato 22 febbraio. Vabbè, niente. Siamo rimasti tutti senza parole. Vabbè, per dire. Buona giornata, Rena. È una cosa nazional popolare, aiuta. Esatto, aiuta, bravo, aiuta. Bravo. Aiuta. Grazie. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Andiamo con Michele. Intanto c'è qualche ascoltatore sui messaggi che ci critica perché non abbiamo accettato il confronto sulla questione della cannabis. Non è che abbiamo accettato il confronto, abbiamo parlato d'altro, non dell'uso della cannabis in generale, ma a scopo terapeutico, con un sindaco che si propone di coltivarla sul suo territorio anziché di importarla dall'Olanda. No, e poi in realtà in effetti non era tanto il confronto, perché nel senso che era semplicissimo discutere questa cosa, è che era un altro argomento, l'argomento era, che anche interessante, era perché per divertirsi si va a cercare di alterarsi in qualche modo. Tra l'altro dire una cosa che non ho detto. In che senso? No, no, dico, non tu, l'ascoltatrice, esatto. Non è un confronto. No, ma è anche interessante parlare di questo, ma onestamente in un'altra puntata. Esatto. Michele da Modena, buongiorno. Salve, buongiorno. Salve. Buongiorno, prego. Mi scusi, io il mio intervento forse un po' retro, ma la mia domanda è questa. Sì. Al tempo, adesso, no? Siamo nel 2014. Sì. La cosa prioritaria, secondo lei, è la legalizzazione della canna, i matrimoni gay, il restare in Europa? Cioè, non capisco. Il sindaco di Lecce, che nemmeno lui, io capisco molto, giustamente, Michele, ha delle parole bellissime, la coltiviamo, la facciamo, benissimo, ma se ci fossero le istituzioni serie, ma non avrebbe bisogno. Ho capito, però le istituzioni serie, cosa vuol dire? Posso dire una cosa, nel senso che questa mi sembra che è spesso una motivazione per cui si blocca tutto. C'è sempre una cosa più grave che sta succedendo, allora l'emergenza, uno dice, ma come? La vera esigenza in questo momento del paese, non dico che sia l'unica esigenza, ma esiste anche quell'esigenza, e c'è chi si occupa di quello e chi si occupa della fame nel mondo. Non possiamo occuparci tutti della fame nel mondo. Benissimo, quindi vent'anni fa? Quindi vent'anni fa, che cos'è? Una domanda? No, era una domanda, quindi vent'anni fa, cioè, vent'anni fa la canna doveva era il 94. Non ho capito, Michele, vent'anni fa cosa? Non ho capito, Michele, vent'anni fa cosa? No, dicevo, vent'anni fa la canna, perché non si è parlato anche di utilizzarla vent'anni fa o trent'anni fa? Ma se ne è parlato, e come anche vent'anni fa? Siccome se ne è parlato vent'anni fa, che oggi è stata legalizzata. Ma soprattutto chi se ne frega di vent'anni fa, Michele? Grazie. No, ho capito, perché lei ha detto quello che voleva dire, non è una priorità. Secondo lei bisognerebbe parlarne con i malati di sclerosi che la usano, e che per loro sì che è una priorità. Eugenia da Genova, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Io ho detto il personaggio Matt Damon. Come chi? Matt Damon. Matt Damon. Ah, Matt Damon. E come mai questa settimana, che cosa ha fatto? Perché secondo me ha preso un premio che si chiama Crystal Award, sì, per l'impegno che lui usa nel assicurare l'acqua piena ai bisogni ai bambini africani. Sì, sì, ma infatti l'avevamo fatto questo. È stato il nostro personaggio. Eugenia, grazie, non è lui, è arrivato in ritardo di 3 settimane, credo. L'avevamo fatto 3 settimane fa, non è Matt Damon. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E ho buttato i miei pensieri via, la noia e il magone, li ho buttati tutti quanti stamani, tutti dentro un bidone, e fuoco col cherosene, e a modo mio, sono con Allora, c'è tutto un fiorire di talent garden, incubatore di start-up, spazi di co-working, un filone nuovo, importante, fresco in Italia, giovani, meno giovani che si mettono insieme, si mettono in discussione, accumulano competenze, recuperano spazi, lanciano idee, progetti, alcune di queste cose diventano delle imprese e noi vi vogliamo raccontare oggi una storia, una bella storia che viene dalla provincia di Brindisi, una volta tanto siamo al sud. Il protagonista è Roberto Covolo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Project manager di che cosa? Di Ex Fadda, un ex stabilimento a San Vito dei Normanni, una ex fabbrica che è diventata una officina di idee. Intanto complimenti, perché si parla di voi, insomma, della stampa locale e non solo, perché da zero avete preso uno spazio. Che cos'era? Uno spazio abbandonato? Archeologia industriale? Era una vecchia fabbrica di vino abbandonata da oltre 50 anni. Uno di quei tanti scheletri abbandonati che si vedono andando in giro lungo le strade, le autostrade italiane e non solo, nelle nostre periferie. E avete avuto l'idea di farci che cosa e quando? Quando siete partiti? Siamo partiti 3 anni fa con l'idea di trasformare questo spazio in un grande progetto a favore della comunità, provando al tempo stesso a dare un'opportunità ai più giovani di avere spazio e risorse per le loro idee, imprese, associazioni, gruppi informali, ma al tempo stesso restituire valore sociale al territorio e sostenibilità economica, perché vogliamo che questa impresa si emancipi dalle forme del finanziamento pubblico e possa diventare una grande esperienza di cogestione da parte di molti. Oggi cosa succede all'Ex Fadda? Se uno arriva a trovarvi, cosa trova? Se uno arriva a trovarci può venire a prendere un caffè all'Ex Fadda Caffè, che è stato nato grazie al recupero della vecchia casa del custode dello stabilimento, oppure può accompagnare il proprio bambino all'asilo, oppure incontrare una delle 30 realtà che quotidianamente lavorano all'interno della struttura, tra attività legate alla cultura, all'arte, alla musica, allo sport. Abbiamo un laboratorio di scherma ed è di prossima apertura un progetto di un ristorante speciale, perché sarà un ristorante in cui le persone al lavoro in sala e in cucina sono persone provenienti dal mondo delle disabilità. Senta, ma c'entra qualcosa come atmosfera quello che un tempo si chiamavano i centri sociali? Perché sembra anche un po' questo, da un certo punto di vista, cioè uno spazio che nasce da nulla con tante belle idee, tanta condivisione, però un tempo questi centri sociali erano ghettizzati nell'ambito delle occupazioni, dell'illegalità, di una socialità un po' ai margini, però sembra di respirare un po' la stessa aria. Cioè, voi che siete di una generazione nuova rispetto a quelle esperienze, vi richiamate un po' anche a quel mondo o no? Diciamo, il nostro esperimento fa più riferimento al mondo dei community center, cioè degli spazi pubblici che possono restituire un nuovo senso di comunità, cercando di interloquire con tutte le forze attive della società pugliese in questo caso, per cui sono nostri amici al tempo stesso sia le organizzazioni che si battono sul territorio per le questioni ambientali, al tempo stesso le associazioni degli imprenditori. Lo spazio è uno spazio di proprietà del comune, per cui è all'interno di una politica pubblica, cioè crediamo che sia arrivato il momento di mischiare le carte per provare a generare nuovo senso all'interno dei territori. No, la domanda l'ho fatta perché insomma quando ero, adesso dico una frase importante, quando ero giovane io, queste cose qua, quando ero ragazzo insomma, si facevano nei centri sociali, diversamente, sicuramente meno bene di come le fate voi, cioè il ristorante, il bar, l'asilo, la biblioteca. Come meno bene? Meno bene, perché questi sono ragazzi che hanno anche una vena imprenditoriale, fanno le cose nella legalità col comune, coi fondi, e quindi sicuramente... Direi anche i centri sociali comunque, visto anche poi, molti ormai sono assolutamente delle attività, direi, commerciali. Alcuni ci sono riusciti in Italia, alcuni sì. Non molti, alcuni sono morti, esatto. Spariti, sepolti, altri sono riusciti a sopravvivere, altri hanno preso anche questa strada. Ma coltiverete anche la marijuana, visto che siete in Puglia? Abbiamo sentito il sindaco di Racale dirci... No. Donato Metallo è un nostro amico, però noi lavoreremo su un orto sinergico per prodotti a chilometro zero per il ristorante. Ah, perfetto. Oggi anche la marijuana a chilometro zero, direi, no? No, non ci abbiamo ancora pensato. Oggi siamo molto forti sulla Puglia e anche sulla marijuana, devo dire. Roberto, ci sono molte attività lì da voi, c'è possibilità anche per qualche ragazzo che abbia qualche idea di venire per mettere in piedi un'impresa oppure anche per associarsi a qualcuna delle attività economiche che già ci sono là dentro? Assolutamente, questo è uno spazio aperto in cui stiamo cercando di costruire alleanze anche con il sistema del credito del nostro territorio. Per esempio la fondazione Unicredit è partner del progetto del ristorante, finanzia un pezzo degli interventi di recupero. Molte imprese del territorio cominciano a guardarci come interlocutori per provare a fare le cose in una maniera nuova, perché anche il mondo in cui ci sono le risorse comincia a capire che è necessario guardare al proprio territorio non in maniera predatoria ma in maniera collaborativa, e quindi noi proviamo a rigenerare fiducia dicendo alle persone che è possibile, anche distante dai flussi principali di beni di persone in un piccolo paese del sud, che è possibile provarci. Per cui l'invito è a venirci a trovare e a provare comune per comune a recuperare spazi abbandonati per costruire nuovi spazi di socialità e di impresa. Mi sembra molto bello soprattutto dire occuparsi dello spazio in maniera non predatoria ma collaborativa, mi piace moltissimo. Grazie mille Roberto Cavolo, grazie per essere stato con noi. Cavolo, certo. Sembra un po' Faccio cose e vedo gente il film di Nanni Moretti, insisto, però è proprio da una libertà mentale come questa che possono nascere anche idee imprenditoriali. E quindi questo è un messaggio, insomma, bello, positivo, e poi funziona, insomma, per cui adesso è arrivato il momento di chiudere. No, manca ancora un minuto e mezzo, non abbiamo ancora assegnato il premio, vediamo un po' se ci siamo. Francesca dalla provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Sì, grazie. Siete bravissimi. Lei è quasi l'ultima nostra chance per vincere il premio, eh? Sentiamo. Se no lo facciamo noi il corso d'inglese. Ah, ok. il corso d'inglese no, che c'è in taglio, non ho capito. Sì, sì, si vince un corso di BBC English. No, non ci posso credere, fantastico. Ma deve prima vincere però, eh? Deve dirci la risposta. Deve darci la risposta. Speriamo. Sì. Allora, posso parlare? Sì, certo, deve. Ma pensavo al senegalese che è intervenuto nello scippo a Napoli, l'unico che è intervenuto per dare soccorso alla signora o per fermare lo scippatore. Pensavo a lui, dato che... Eccolo l'applauso, Carmelo, la Lucia l'ha fatto scattare con grande ottimismo. Ha vinto proprio all'ultimo secondo. Brava, brava, la notizia. Ci ha scippato il premio, direi. Era questa, non abbiamo tempo per commentare e per congratularci oltre, grazie. Grazie. Perché per oggi è tutto. Oggi. Ci sentiamo sabato prossimo. Un ringraziamento come sempre ad Andrea Piana, a Giorgio De Luca, autori e redattori di questo programma. Carmelo La Lucella in regia. Oggi c'era anche Camilla che ci ha fatto compagnia. Sarà la nostra, ombra d'ora in poi la domenica. Grazie a tutti. Grazie buona a tutti. Anche Maurizio. Chi ci ascolta in podcast da Carlo Gabardini. Ciao, ciao.